Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tornò in camera e si accese un'altra sigaretta, che fa sempre bene. Si rimise sul balcone e guardò la strada. Alla luce del giorno sembrava ci fosse ancora più confusione e che tutto fosse ocra. Prima di partire era curioso di sentire il famoso odore dell'India. Posò la sigaretta e annusò l'aria. L'odore dell'India in realtà sembrava più una puzza. Mi chiamo Paola, ho 29 anni, vivo nella provincia di Monza, di lavoro faccio la giornalista e ho una grande passione per i viaggi e per il mondo del vino. Sono diventata sommelier da qualche settimana e no, basta. Qualche sera fa ho visto un film al cinema che si chiama Marigold Hotel. Racconta di sei più o meno anziani, però non saprei nemmeno più se definiscono anziani persone attorno ai 65 anni. Direi di no. Direi, o forse sì, vabbè, chi se ne frega, delle persone tra i 65 e i 75 inglesi che vanno, come dire, a svecchiare o a svernare in India. È un film che in realtà è meno di quanto sembri, però se non ci avete da fare una sera si può fare. Vanno in India, dove esiste questo luogo che promette gli ultimi anni di vita sereni e pieni di nuove prospettive orientali, ed è gestito da quell'attore, credo sia lo stesso attore di The Millionaire, l'attore indiano del film in cui c'è appunto Chi vuole essere milionario. Si vedono stralci di India. È un po', devo dire, è un po' l'idea dell'India che hai quando pensi all'India, quando non essendo stato in India pensi all'India, per cui un po' di casino, un po' di odori, colori e bla bla bla. Il racconto di Paola, che tra l'altro perché io ho scritto, ogni tanto scrivo degli appunti che non salgono sulla scaletta, uomo o donna, perché l'ha scritto, bravo, vedi, non sono proprio un imbecille, perché Paola è una donna, come avete sentito, perché questa redazione qua, adesso scusate un attimo, voi pensate di poterla far su, ma mica tanto, la redazione di Voi siete qui non si fa sfuggire niente, quindi ha visto che era raccontato in prima persona da un uomo, poi però ha chiamato la persona che aveva dato il numero e ha risposto con una voce femminile, quindi Paola è l'autrice del racconto che l'ha scritto in terza persona al maschile. Perché non si sa? Non sappiamo perché. Era un esercizio di stile. Perché lei ha scelto. Sì, ma perché? Vabbè, glielo chiedo dopo. Giusto, glielo chiedo dopo. Non devo chiederlo a te, Bonini, cosa ne saprai. Quindi Paola è stata in India, è stata per l'esattezza Nuova Delhi. E il suo racconto si basa sulla prima parte della sua vacanza. Cioè, lei non racconta che cosa vede dell'India quando va in giro e sente gli odori e i colori e bla bla bla. Semplicemente si piazza sul balcone per i primi tre giorni e guarda l'India da quel posto lì, dalla stanza, dal balcone di una stanza d'albergo. Questa è stata la prospettiva che lei ci ha dato e che ci ha divertito, e per cui ci siamo messi a riflettere di tutti quei posti in cui si sta quando si va in giro, che non è casa propria, che di solito sono una stanza d'albergo, e del modo anche in cui in un modo o nell'altro cerchiamo di rendere nostre le stanze d'albergo o i luoghi che non sono nostri e cerchiamo di renderli un po' casa nostra. Giulia mi ha scritto: l'importante è avere sempre con sé, per quanto mi riguarda, certi piccoli oggetti che mi seguono nella borsa, una conchiglia, alcune foto, un piccolo scarabeo turchese nel borsellino. Perché lo scarabeo turchese forse porta fortuna o porta soldi o vabbè o robe del genere, ma anche in ufficio, no? Sapete quelli che insomma tante persone rendono l'ufficio un luogo familiare e casalingo. Claudio: sul computer in ufficio avevo un asinello in paglia, una barchetta con su scritto Ustica e un memo con sopra scritto Take it easy. A qualcuno non piaceva questa personalizzazione e preferiva il computer pulito. In genere li mandava a cagare. Beh, insomma, Claudio, c'era un clima sereno in ufficio, direi, a giudicare da quello che accadeva. A questo proposito vorrei ricordare il sempreverde Gianga, che è uno dei nuovi redattori di Radio 24, che è appena arrivato sul suo monitor pulito, aveva attaccato un post-it con scritto non fare cagate o non fare cazzate, una roba del genere, che era il suo modo per sentirsi a casa. 349-238-6666, Matteo Caccia. Io sono qui, il profilo Facebook, se avete voglia di contribuire a questo racconto globale di il modo in cui rendete casa vostra una cosa che non è casa vostra. Il tutto perché attraverso il racconto di Paola siamo passati dal balcone di una stanza d'albergo a Nuova Delhi. prese la sigaretta dal pacchetto nella tasca dei pantaloni e l'accese, socchiudendo gli occhi e assaporando la prima boccata di fumo in bocca. Alla radio sentiva gracchiare Sweet Home Alabama, la canzone più passata in quell'estate del 2008. Era la sua prima notte ad Ely e in piedi sul balcone della sua camera d'albergo, dopo la doccia, guardava il brulichio della città. Prima di partire era curioso di sentire il famoso odore dell'India. Posò la sigaretta e annusò l'aria. L'odore dell'India in realtà è una puzza. Smog, spezie, dolci, qualcos'altro che non si può nominare. Guardava le donne che passavano sotto di lui, centinaia di sari che si coloravano sotto le luci fioche dei pochi lampioni sulla strada, veli mossi dal vento e dal passo veloce. Biciclette, ambassador gialle e risciò, guidati da uomini magri e sudati. Clacson e campanelli stordivano l'aria con suoni continui. Andare in India, perché l'India è un paese sicuramente meraviglioso e molto stimolante, è un paese che non ha mezze misure, quindi tutte le cose sono all'ennesima potenza, dagli odori ai sapori ai colori, sono tutte cose molto forti. I bambini giocavano sui marciapiedi e uomini appollaiati per terra brustolivano pannocchie con fornelletti improvvisati. Altri invece radevano la barba ai clienti seduti su degli sgabelli ai bordi della strada. Le mucche magrissime camminavano tra la gente e qualche scimmia se ne stava in cima a un albero, vicino ai lampioni, e guardava, anche lei. C'era un caldo umido e schifoso. Non credeva che anche le gambe potessero sudare e invece in quella notte d'inizio agosto si ritrovava con i rivoli di sudore fin lungo i polpacci. Passò la prima notte indiana così, in silenzio, attonito a fumare una sigaretta dopo l'altra, guardando la strada e la gente. Voleva abituarsi a quell'ambiente, all'atmosfera di quella città che non dormiva. Al mattino si svegliò stanco, stordito dall'aria condizionata della sua camera, che gli aveva però concesso qualche ora di riposo. Fece colazione in terrazza e conobbe tre francesi che erano appena tornati da Calcutta. Orrenda e meravigliosa allo stesso tempo. Un pugno nello stomaco che sconvolge e affascina, dissero. Lui aveva un mese per visitare l'India. Era impaziente, desideroso di conoscere i dettagli più delicati di quella parte del mondo. Ma aveva anche qualche piccolo timore. Viaggiava da solo e le medicine per la profilassi lo avevano indebolito. Mi piace viaggiare sia in solitudine sia con altra gente, dipende un po' dal tipo di viaggio. Un viaggio come quello in India è bello se fatto, secondo me, con poche persone, anche solo con una grande amica sicuramente. Tornò in camera e si accese un'altra sigaretta che fa sempre bene. Si rimise sul balcone e guardò la strada. Alla luce del giorno sembrava ci fosse ancora più confusione e che tutto fosse color ocra. Forse era la polvere, forse la sensazione di umidità che c'era nell'aria. Erano belle le donne indiane, pensò. La pelle scura, color biscotto, e i capelli neri, che più neri c'è solo il petrolio, raccolti in trecce e legati da mazzolini di mughetti bianchi. Sembravano creature prive della sensazione di caldo, non sudavano, non si affaticavano. Percorrevano a piccoli passi la strada come tanti soldati scalzi. In pochi secondi apparivano e scomparivano tra i loro sari svolazzanti, accompagnate dal suono delle cavigliere d'oro. Dal suo balcone vedeva tutto, dall'alto. Studiava la gente, l'aria, cercava di entrare in contatto con il caldo umido e con quell'odore dolciastro, strano. Voleva imprimere quelle prime immagini dentro di sé, per non dimenticarle mai. Il suo primo sguardo sull'India. Fu dall'albergo la giornata che iniziava a Delhi. Fu da quella stanza d'albergo. I senzatetti che avevano passato la notte sul marciapiede si lavavano con l'acqua degli idranti. I bambini, impegnati, si passavano la saponetta tra di loro e si sciacquavano ridendo e giocando. Passò i primi due giorni sul balcone di quell'albergo. Osservava senza uscire dall'ingresso dell'hotel. Studiava le strade brulicanti e la gente. Si svegliava tutte le mattine all'alba. Faceva colazione con una macedonia di mango e papaya e poi si sedeva tranquillo sul balcone. Poi, un giorno, partì. Non sono mai stato in India e da quello che mi raccontano tutti quelli che ci sono andati, evidentemente mi sono perso qualcosa. Che cosa di preciso, però, ancora non l'ho ben capito. Qualcuno mi ha descritto i colori, qualcun altro gli odori, appunto. Qualcuno mi ha parlato della folla, altri invece degli spazi infiniti. Qualcuno me l'ha descritto come un intenso viaggio interiore, e altri come un pugno in faccia, una serie continua di sollecitazione per tutti i sensi. Non posso descrivere Nuova Delhi, come ha fatto Paola, ma quello a cui ho pensato quando ho letto dei suoi 3 giorni in camera, prima di trovare il coraggio di uscire e cominciare il viaggio per davvero, è stato l'albergo. Cioè, non mi è venuta in mente Nuova Delhi, ma il suo punto di vista, dalla finestra o dal balcone della camera d'albergo. Per ogni viaggiatore è un luogo particolarissimo, così importante da poter cambiare completamente il senso di un viaggio, a seconda che sia accogliente oppure no, buia o luminosa, piccola o grande, vissuta o trascurata. La camera d'albergo è un po' il sostituto della nostra casa, un po' il nostro rifugio. È il luogo dove riparare e riposare dopo uno stress, ma anche una zona di decompressione all'inizio di una vacanza o di un viaggio, da quel senso di non luogo impersonale asettico che hanno gli aeroporti o le stazioni ferroviarie o gli autogrill. Ecco, si passa al mondo completamente diverso della meta del nostro viaggio. E lo shock può anche essere forte, soprattutto se vai in India. E allora è comprensibile che uno voglia cercare quiete e ambientamento in uno spazio neutrale, no? Circondato dagli oggetti rassicuranti che abbiamo tirato fuori dalla valigia, tipo i vestiti, o da un letto semplicemente, o da una televisione. Un luogo che non è casa, ma che le assomiglia un po'. Di certo di più di tutto quanto troveremo là fuori, almeno. E poi ci sono le vite delle persone che precedentemente hanno dormito in quella stanza. Perché per noi è la nostra, ovviamente, solo che ogni giorno è la stanza di qualcun altro. Tutte persone diverse, le cui storie sarebbe bello incrociare. E questa storia mi è tornata in mente perché mi ricordo che una volta ho fatto un sogno, non mi ricordo se era un sogno o semplicemente l'ho pensata questa cosa. Forse avevo visto il video di un regista polacco su questo tema. Dopo ve lo carico su Facebook. O forse perché stavo partendo per un viaggio, insomma non mi ricordo. Una notte però ho fatto questo sogno in cui ero in una camera di un hotel, in un luogo non meglio precisato, non so dove fossi, e mi trovavo in mezzo a una folla. Ma non era una situazione tipo ressa, no? Tipo stadio, anzi no, c'era molta tranquillità. Solo che in quella stanza eravamo decine di persone che non si conoscevano tra loro. E ognuno viveva come se gli altri non esistessero. E io ero tra quelli, ma ero l'ultimo arrivato e avevo ancora la chiave in mano. Eravamo tutti clienti dell'albergo, ma era come se il tempo si fosse arrotolato su se stesso. E allora ho appoggiato la valigia a terra e ho cominciato a guardare cosa facevano gli altri. Ed era molto più interessante di quanto pensassi. Ognuno viveva quella stanza in un modo diverso e pensava di essere da solo, ovviamente. Per cui c'era il ragazzo che stava sdraiato a guardare la TV e la donna che usciva in accappatoio dal bagno. Poi c'era un distinto uomo d'affari che apriva la sua 24 ore sul tavolino. Su quello stesso tavolino si era però anche appoggiata una ragazza a scrivere una lettera con la carta intestata dell'albergo. Una coppia di una certa età stava sistemando i vestiti nell'armadio e un altro uomo guardava fuori dalla finestra fumando una sigaretta. Sentivo il suono di un phon acceso e cercavo di capire dove potevo sistemarmi. Sul letto, di fianco a quello che guardava la TV, c'era una donna che dormiva sotto le coperte e ai suoi piedi un barboncino bianco che mi guardava. In piedi di fianco a lei un signore stava parlando al telefono con la reception per avere una sveglia la mattina dopo, credo. Nel sogno non succedeva niente di particolare. Era solo l'ammasso contemporaneo dei pezzetti di vita di qualcuno che era passato di lì. Non era sgradevole, però avrei preferito non ci fossero. E quindi stavo lì, fermo, ad aspettare. E non so bene cosa. Però i sogni sono fatti così. So solo che da quel giorno, ogni volta che entro in una stanza d'albergo, per un attimo vedo tutti quelli che ci sono passati. Li saluto e loro scompaiono, perché è arrivato il mio turno. From the bay ups, i miei

siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Paola, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, è in riva al mare. È un oceano, evidentemente, e immagino sia in India, perché di fianco a lei c'è una donna con un sari, o quello che io mi immagino essere un sari, con il marito indiano. Lei è proprio in bella posa di fronte alla macchina fotografica, dietro alla quale immagino ci sia la sua amica e non un indiano che la fotografa. Ha su una magliettina rosa, ma ha il tipico fularino che ci si compra quando si va in India, o ci si fa comprare quando si va in India, oppure quando qualche amico è stato da quelle parti, e che fa sempre un po' inviata sulle zone di guerra. Chi è che ha cominciato? Non era quella del TG3 che ha cominciato ad avere lo sciarpino? Lily Gruber, perdonatemi, Lily Gruber. Giovanna Botteri. Un po' Giovanna Botteri, un po' Lily Gruber con lo sciarpone. Cioè lo sciarpone, che poi immagino fosse una pashmina o roba del genere, no? Ma anche chi se ne frega, perché ha cominciato un filone di messaggi a cui ci stiamo affezionando. È partito con la storia dell'odore, della puzza. E 349-238-6666 ci stanno dicendo in poche parole qual è stato, diciamo, l'odore dell'ultimo luogo in cui siete stati in vacanza. Per cui era, appunto, abbiamo detto Mauritius, Etiopia, odore di terra rossa e di latte. Cuba 2012, ci raccontano l'odore di Cuba del 2012. Mauritius ancora non lo sappiamo perché è in partenza, e ci dirà più tardi. Se avete due parole con cui definire l'odore del posto in cui siete stati in vacanza, 349-238-6666, o anche della vostra città. Milano, c'è ufficialmente un momento dell'anno in cui Milano comincia a puzzare di carne alla griglia. Non so se è perché faccio delle strade in cui ci sono solo ristoranti argentini, ma ne incontro due tornando a casa dalla radio, che poi è anche vicino a casa tua, Tiziano. Se tu ci fai caso, alle 5, passando più o meno all'altezza di Viale Tibaldi, c'è odore di carne alla griglia. Poi, no, magari dopo te lo faccio sentire. 349-238-6666. Antonio, personalmente, dove mi metti sto a proposito di personalizzare i luoghi che hai intorno? Non porto mai nessun oggetto personale. Cerco di conoscere le persone con cui sono per rendere familiari, va bene. Ovunque poso il mio cappello, quella è casa mia. Questo è un detto, questa è una citazione, no? Chi è che l'ha detta questa cosa? Ovunque poso il mio cappello, quella è casa mia. A proposito di posare il cappello e stare in giro agli odori delle città, abbiamo quasi sicuramente deciso che una delle città con cui andremo in tour sarà Roma. Siamo quasi sicuri, vero? Niente, là, nessuno. Nessuna risposta proprio. Io sono quasi sicuro che una delle città sarà Roma, e probabilmente le altre saranno a salire, a scendere poi forse l'anno prossimo, giusto? Allora, non sappiamo ancora niente, però vi ringrazio. A proposito, sono un po' preoccupato perché non mi è arrivato il messaggio dell'ascoltatore che mi invita a Zocca. Ormai noi conosciamo praticamente tutti gli abitanti di Zocca, compresa il consigliere comunale di cui ci aveva dato il numero di telefono e il nome. Zocca, cominciamo a considerare possa far parte del tour, ma non ancora. Solo se ci dici qual è l'odore di Zocca noi possiamo arrivare. Di che cosa puzzerà? Di che odore avrà Zocca? Non lo so, lo chiedo, non è una domanda retorica, non lo so. 349-238-6666. A proposito di odore, visto che con Tiziano spesso ci raccontiamo come la musica e la radio, quindi il suono, siano un modo per sentirsi a casa. Tiziano ci ha scritto un libro anche sul fatto che ci sono delle sonorità che ti fanno sentire a casa, e quindi portarsi dietro il podcast in programma o portarsi dietro la propria musica è semplicemente un modo per creare una sorta di barriera casalinga intorno a sé, anche se si è magari in una metropolitana o dall'altra parte del mondo. Quella è uno dei modi con cui ci si sente a casa. L'altro invece è proprio l'olfatto, è proprio sentire degli odori. Ed è arrivata una mail oggi che ci raccontava di Michele, che mi raccontava esattamente di quella cosa lì, che lui non si porta nessun tipo di gadget e nessun oggetto, ma affida quella sensazione di riparo e di protezione proprio agli odori. Caro Matteo, io ho un rituale quasi ossessivo che uso per rendere mio il posto in cui mi trovo. Io non appendo fotografie, non mi porto dietro peluche o oggettini particolari. Non è la vista la cosa che mi aiuta a sentirmi protetto e a casa. No, è l'olfatto. Ti spiego. Mia nonna usava un prodotto per deodorare gli ambienti di casa sua, che poi era anche casa nostra, che si chiamava carta d'Eritrea. La carta d'Eritrea è una strisciolina di carta lunga quanto una sigaretta, alla quale si dà fuoco, brucia in 20 secondi e lascia nell'aria un profumo indescrivibile, dolce, languido, un odore che per me è casa mia. Per un po' di tempo ho creduto che fosse una cosa esotica, anche perché sulla copertina è raffigurata una donna velata, avvolta in un candido sciamma, che tiene sulla testa un'anfora. E lei si trova sopra un cammello. Poi invece ho scoperto che la carta d'Eritrea era stata inventata negli anni 20 da un farmacista italiano. Io viaggio molto per lavoro e ogni volta che entro in una stanza d'albergo che ha sempre quell'odore di moquette cisposa e residui di fumo attaccati alle pareti, brucio una cartina d'Eritrea e mi sento a casa. Addirittura, quando sono un po' giù di morale, me ne infilo una strisciolina in tasca e ogni tanto ne respiro l'essenza. Non dico che mi torni il buon umore, ma quasi. Ho scoperto che è composta da 35 resine e oli essenziali, ma chi se ne frega. Quell'odore io non lo so descrivere. Per me, semplicemente, sa di casa. Grazie e ciao, Michele. Bali 2011, l'odore dei frangipani e il sapore degli ananas. Stefano, sull'altopiano di Asiago, odore di malga, 14 giorni di formaggio. L'odore più bello è quello della macchia mediterranea quando sbarco dalla nave e arrivo a casa mia in Sardegna. E poi ancora, odore di crescentina fritta nella provincia di Bologna. Ma per Bologna c'è anche i tigli di maggio. L'odore dell'Indonesia, durian e cretek. Qua è perché proprio ci sei stato, voglio farlo sapere. E non farlo sapere a nessun altro, però. Perché durian e cretek per me potrebbe essere da una gomma a una benzina. Siviglia, zagare e gelsomini, dritti nella pancia. Edimburgo, odore di cereali, quelli nel latte la mattina, quelli al miele a forma di anellini. Ivrea, il carnevale, succo di arancia e cacca di cavallo. E poi sono arrivati i consigli per Zocca. Allora, ci sono tre tipologie di odori a Zocca, secondo quelli che non so se ci sono stati o la conoscono. Odore di caccioli a Zocca. Zocca sta di gnocco fritto, Zocca odora di Coca-Cola. 349-238-6666, ma ce ne sono ancora, l'odore di liquirizia quando sbarchi in Sardegna. Non è proprio liquirizia, però, quell'odore lì. È più mirto e roba. E poi ancora, Somalia, odore di immondizia lasciata al sole per giorni. Ahimè, di legna bruciata e legno di canfora. Io ringrazio anche quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Paola e parlava di India e di odori, direi. La storia di domani è la storia di Rodolfo e parla dell'essere spietati. La campanella suona, gli vado incontro, vedo e sento solo lui. Cominciamo. Diretto, montante che schivo. Rispondo con un calcio alla coscia e un diretto al viso. I colpi sono potenti, si susseguono come una tempesta di grandine da una parte e dall'altra. La fatica inizia a farsi sentire. Finisce il primo round. Nessuno si è fatto male.